chi è? Buongiorno anche a lei. Eia, eia, tutto da rimettere in ordine. Come? Lo so, sono già uscito a portare il cane e quindi già lo so, è anche freschetto sta facendo. Io me lo... KK. Non ho capito chi sei tu, perché non ti ho riconosciuto con questo apparato qua. Ancora mi devo fare l'orecchio, diciamo così. Ma sei con un altro apparecchio di Bessu, vero? Noi eravamo di due, Avisa. Mi pare che diventa un citofono. Ma cosa ti si ecuto? Diventa una dambullana. E allora, mi pare che diventa una dambullana, mi pare. Chi è? Prova. Non sei sul microfono, Manuè, cazzo. Telefoni, come rimane? Io ne avevo trovato uno del Midland, ne avevo trovato in campagna, ma dovrei averlo qua, un microfono. Dovrei, uno di quelli Midland neri che usavano negli Alan 48. E quello dovrebbe uscire bene, chiaro, di radio. Questo qui è... ci vuole buttato, questo che hai tu. E la capsula magari non serve, è di quelle citofoniche. Proprio diventa un telefono, mi pare. Aspetta che abbai Davide si acciappu lo microfono. Quello che ho trovato in campagna, aia, maledizione. Anche il ginocchio mi fa male. Asco, c'ho un M97. C'ho, palmare. A proposito, quello è anche amplificato, Manuè. E tutte le radio va bene, perché non lo trovo quello nero che ho portato da campagna. Però già c'ho questo M93, gli devi cambiare lo spinotto perché ce l'ha 8. Ti taglio lo spinotto e tu gli metti quello che c'hai lì. Aspetta, te lo prendo. Avari fattura a vuoto, l'ha già avuto chi su preamplificato. Guarda se l'ha ricevuto. Eia, non è a ecco. È solo microfono preamplificato. Già funziona beh. A Roma ancora una radio come te di Grisciani. Devi solo attaccare lo spinotto che hai tu, perché questa è a 8 punte, capito? Ehi, mi chiami, vieni Trubigli. Che nocchi. Almeno ti alza la radio e tutto, visto che esci basso di segnale. Almeno esci chiaro, vedono che sei tu ed è pure un po' amplificata. Capitola. Io lo usavo nell'omologato. Questo qui, in quello piccolino che aveva, adesso mi ho comprato questo, l'omologato. E non va più bene perché questo c'ha lo spinotto a 8 come quello del Kenwood. Adesso te ne stacco lo spinotto e così è pronto a piazzare. Oh, questo c'ha lo spinotto a 8. Io te ne tolgo lo spinotto così tu gli metti quello che tu hai già. Quello che va bene per quell'apparecchio che stai usando. Non è che lo taglio di netto, no. Lo smonto, lo spinotto e disaldo i fili. E così ce l'hai pronto per piazzare. Ma magari non va bene la capsula. Non ce la buttare quel microfono, no. Ti buschi magari una capsula che ti schiarisca la radio. Capito? Non si rampanno. Vorrà cambiata la capsula solo, magari chiedilo all'amico tuo a vedere se ce l'ha qualche capsula normale e gliela metti in quel microfono. Allora, va, mi labbro lo spinotto e ti ne rugavo. A chi così chi ci rudorru a me l'abbia dato, questo di da otto. Te li disaldo i fili, così non te li taglio di netto, cioè è già pronto a saldare, capito? Me trattarino! I te bolles, eh? Padoni me la da giocca. Tanto, ma c'è un culo di piffa, ma non che fosse una passeggiata. Come vale con un poco di cocco e il cioccolato sia a casa. No, è maruno il cocco. Ma è maruno? Ma è la palla. Ma mi devo far prisare un paio d'anchi, però, panda. Viene da camminare, un bel di chilometri da pappi. Ci puoi fare la gioca, Natale Cussi, dai, un attimino di bianco che me ne fa la roba patriccia. Faccia così, lei sì che è un buon casalingo. Ci siamo dopo una mossa, è un casino. Se ma come vuoi si ferma tutti noi. Oh ya! Yeah. Well. Non me lo ricordo, non è cosa ne. Cioè, è sparito. Se l'avrà venduto mio fratello, cosa ne so? Se l'aveva avuto cazzo era stata una mano dritta, va. E anche io me li sapevo fare i motori della Vespa. Capito? Adesso stacco il saldatore e te me lo stacco. Così. Ti rubigli di rusati in chivi ed è tutto cavagava. Cosa, Manuè, che non ti ho capito? Vabbè, io me l'ho comprato a 18 volt, però non è stesso da 20 euro. Me l'ho comprato a due velocità, quello che ho io, tassellatore, c'ha il martello, c'ha tutto quello che ho io. È bellissimo. L'ho comprato come quello che c'ha Franco. È professionale, l'ho preso, no? Cazzo. Ha fatto una punta da 15, pure una punta da 15 entra anche su tassellatore che fa giro. Perché io c'avevo un Black & Decker, io c'avevo, a 14 volt. Infatti mi ho tenuto le batterie e il caricabatterie, guarda se servono a qualcuno. Perché il mio è a 18 volt, capito? Quello, e quindi queste batterie non vanno più bene. Rimasto il microfono bloccato. E cosa vi vuoi fare, Manuè? Ti ho vendo sta adesso. Sto facendo scaldare il saldatero. Manuè, mi ascolti? Sto facendo scaldare il saldatore. Così almeno lo stacchiamo ed è pronto a saldare. E avanti. Positivo, casa casa. Forse deve fare in aria, cambia. No, chi è Luca? cazzarola. Vabbè, sappiamo quanto. Oh. Più le MB più 4. Ma tu vedi, e boh, cosa ne so, usa la capsula. No, non penso. Vabbè, dai, adesso controllo. Ma no, esci. E me la capsula, Antari. Poi la batteria, controlla a vedere. Hola, hola, hola. Uscendo sta adesso? Penso sì. Caffala. Anda bene, meda. Ma cosa era? Era... questo filo fa schifo, vuole tutto rifatta a nuovo questa roba. Sì, adesso gliel'ho fatti io. Quello delle MB più, bah, del come si chiama? Del 48 plus. E gli altri due gliel'ho fatto, mi sa. Fatti bene, però. E già mi compro il giorno che vado da Fusaro, già mi compro il cavo, quello schermato, glielo faccio con tutto come si deve. Da. A chiudere lo spinotto. Pronto? Mi sente? Luca? Oh! Mi senti? Sì, io. La radio com'è? Assurda. Cara cara. Fiacchi di vino. Tempatichi, di canto si passa la seminata, premi lo cuturutara, turutara. Attendo Luca, se mi ascolti qua questa chiamata, capa capa. Fiacchi di vino, di vino e ciocca. Ravanella e trullalla. No, così no è. Oh, ah, ecco, così me è. Sta facendo scendere là. Aspetta, zitta. Atto, c'ho stazionarie. Oh. Oh, io stasera non ci vado da Elena. Oh. Mi corico. C'ho quasi due di stazionari. Se sei felice tu batti le mani. Allora io aspetta. Anch'io c'ho uno e mezzo, sta piovendo Natalì, la pioggia Spera. Ciao Natalino, mi non preoccupate, lo stazionario se mi senti. Gaba. Ciao Riccardì. Aspetta un attimo, sto controllando una studia qua. Ecco. La pioggia, Hola. Non esiste se mi guardi tu. Hola. Dici, come mai? Non so più, non so più, se ci sei tu. La pioggia non esiste se mi guardi. Hola, ah, perché c'è, ecco. Luca, scusa, mi sono dimenticato di te. Non si sa per me di niente. Ah, ecco. No. 1,5 ciò. Hola. Ecco, così va bene. Perfetto, Nadalino. E beh, provato là e quella a fare là. Ancora no, bisogna attivare la carta, bisogna che mi organizzo, lo attacco alla TV, con il e chiamo al numero di TV SAT, mi devo organizzare, più tardi si fa. Ma dico no, ho detto se l'hai provato, se l'hai installato dove lo devi installare e se ha preso il satellite, quello volevo sapere. No, ancora non l'ha preso il satellite. Ecco, non avete puntato l'antenna. Prima devi trovare il satellite prima di attivare la carta. È automatica l'antenna, lo cerca da solo il satellite. Ehi, già lo so com'è quella del camper. Però non l'avete provato. Vabbè, là. Ero curioso perché sono buoni quelli limi. Fatelo dire a Roberto, che ne ha due di quelli. Roberto li conosce bene. Ehi, è Natalia, già ti faccio sapere. Ma Luca mi ascolta oppure sta travagliendo? Luca, lo ascolti a Riccardino? Va bene, c'è piove. Sì. Non ho capito niente, che cosa hai detto Luca? Ho detto piove. Governo ladro. Non mi senti? Sì, se ti sento, a tutti e due, a Natale e a te. A Natale è Capodanno. Eia, e poi c'è anche San Silvestro. Dove sei, Riccardi? Sono praticamente avanti, vicino al Lidl, quello andando verso il Ghe. Ho capito, anche lì arrivo, catta! Sì, comunque Natalia, come lo fai? Quando piove, mi salgono le stazionarie, me ne accorgo dallo Smith. Dallo Smith, te ne accorgi? Sì, dallo Smith, dai fatte, da cosa, dal... come si chiama? Dallo scipattone che è freddo. Gara. Luca, oggi pioggia. Ma dov'è quel buon uomo, ne è di corte? Non c'è, è addormentato, Gurareddu. L'ho portato, ha fatto le sue cose, adesso si è sdraiato sul divano. La soaga. E lui la stessa addormentata. I cani d'estate, d'inverno, soprattutto d'inverno dormono molto, dormono un sacco, perché hanno freddo, d'estate hanno caldo e cercano un po' di fresco. Per carità. Oggi ieri mi ha mandato un messaggio, una ragazza che conosco, praticamente ha un cane maschio da sopprimere, lo fa sopprimere oggi. Non c'è più niente da fare, tutto pieno di tumori, è fatto dalla gola, è tutto pieno al fegato, allo stomaco, mi balbo. Come la dice che sta soffrendo quel cane, mamma mia, guarda, cosa vera. Luca, ma con Luna è risolto? Sì, per il momento sì, dai, quel problema prolasso non c'ha più. Un po' dicono che era dovuto dal calore, un po' dicono che è una cosa, questa cosa avviene solo ai cani giovani, boh, ma ancora lo sanno. Papà, già, sta arrivando bene, ma io vero sono finito basso. È oscillante, 5, 7, 9, oscillante, arrivi bene, dai. Tappa, sì, perché sono in movimento. Ma tu stai guidando? Sì, sto guidando io. Bravo, beato a te che sei guidato. Una mano al mic e una mano al volante. E le marce, è automatica la macchina? Sì, è automatica, macchina full optional. Va bene allora. Hai capito Natalia? Lui guida e noi no. Capito Natalino? Come dice lei? Capito Natalino che lui guida e noi no. Io ho la D pubblica come patente, posso portare i pullman di linea, hai capito bello bene, cuocuome. Con rispetto, scusa Natale. Oh, certo che con queste patenti te le prendi, però non c'è niente di lavoro, ma per carità, lasciamo perdere, sono soldi buttati, se c'è un lavoro tanto quanto, c'è gente che ce l'ha queste patenti e non lavora. E infatti, se non le sfrutti, infatti io adesso come mi scade la patente? Faccio la domanda e mi faccio dare la B, perché sennò devo pagare un sacco di soldi. Mi ha detto Franco 550 più devi dare esame, un mese di scuola guida, non saranno. Natalino, non ha molta voglia di fare scuola guida, è un po' poltrone. Ma cioè, ti pare di riempire tutti questi soldi, ma non esiste. Ah, puttina, com'è Natalino? Hai già guidato, fregatela. Sai che se ti chiama il comune a fare l'autista e non c'è la patente adatta, non ti fanno guidare. Oh Luca, scusa un attimo, 910 Radio 5 qua da questa parte, alla bandiera gialla. Beh, fai tu che sei lo stesso, dai, all'incirca. Sono Smith ad attarare e circa 9-10 anche tu, dai, arrivi benissimo, ti ascolto bene, bene, bene. Bandiera gialla, ho capito, sì, sì. Ho capito. E dove stai andando, Riccardi? Sto andando praticamente, proprio sceso all'Eurovet accanto a prendere il mangime per il cane. E tu sai che qua c'è, qua attraccato all'Eurovet, c'è questo che rifà la radio e si è messo un'antenna a 5 ottavi, la sto guardando adesso. Ah, cappa. E anche io vado all'Eurovet a prendere la roba per... anche i medicinali vendono lì. Li prendevo per il mio cane. Quando l'hanno operato prendevo tutto lì. I prezzi come sono, Natali? Come? I prezzi come sono? Più bassi delle farmacie. Si compra bene lì, da Eurovet. Pigliavo antibiotici, tutto roba che si anda in farmacia, costano il doppio. Una volta ho preso questa medicina, un antibiotico, perché lui si riusciva a pussare dall'orecchio, questa un po' crema, però l'ho presa in parafarmacia, c'è la farmacia adatta ad avere cose per i cani, 40 euro. Natalino! Dimmi! Pensa tu che ti fanno un buon prezzo lì all'Eurovet, e pensa, visto che mamma è veterinaria, lì ci sono gli sconti per i veterinari, quindi noi paghiamo ancora di meno! Già lo so. E forniscono, loro forniscono i veterinari, capito? Io andavo con la ricetta e mi facevo dare le medicine e le pagavo la metà. Figurati voi quanto le pagate, molto di meno. Già lo so. E Luca, tu dove vai a comprare il mangime per Luna? Ah vabbè, Luna prendo quelle crocchette, se non mi ricordo il nome. Comunque sono quelle buone, dai. Ce ne sono 800 grammi, le pago, ma se non mi ricordo poco. Ha sempre mangiato quelle e ama quelle. Luna non ha mai mangiato scatolette, mai. E poi vabbè, manco ossa di pollo, mai mangiato ne ha. Manco cartilagine, niente. Solo carne, peti di pollo, cose così. Sì, niente. Vabbè, Luna non è che ha bisogno di... E poi vabbè, compro quelle ossa da rosicchiare, quelle dei biscotti per lei, all'Eurospini compro quelli e mangio volentieri. Papasa. Positivo Cavarocchi, frate. Cavagava. Io mi sa che devo spostarmi ancora un po' più in fuori di strada se voglio vedere il segnale. Ma dove devi andare? Lontano? No, mi ricordo dove doveva andare il babbo, nella zona industriale, forse a comprare altre batterie da 9 volt per i microfoni, poi non mi ricordo. Capito. Quelli anche da Mauris costano poco. Io l'ho presa dura, cioè, per il mio. Cappa, da quanto? Io l'ho pagate praticamente 2,50. La Duracell? Le Duracell da 9 volte. Non mi ricordo, c'è intorno ai 3 euro, 2,50 3 euro, se non mi ricordo. Ah, cappa, perché adesso ho comprato una scelta di microfoni e voglio che tutti abbiano la batteria, e quindi così non ho il problema di cambiare ogni volta la batteria a uno e all'altro. Ho capito, mi conto come ti spicciano un attimo, vediamo, poi saranno una cinquantina di euro. Natale! Oh, dimmi, Riccardi! E beh, cosa mi racconti, oggi stai meglio? Così così. Il ginocchio mi fa male, ma domani penso che finisca tutto questo tempo del cavolo. Infatti, cioè, siamo in estate, finita la quarantena, adesso c'è la pioggia. E cosa vuoi che ti dica? Oh signore, vabbè là, mi fa male il ginocchio oggi. Però sono andato bene, almeno non mi ha tirato il nervo andando a portare il cane, il nervo del polpaccio. Cioè quando era meglio così, cioè quando eravamo in quarantena faceva giornate splendide da andare al mare e si sta facendo un tempo di sai cosa. E cappa, io ho la macchina lontano, se no sarei andato da Fusara a prendermi dei coccodrillini, mi servono, e uno spinotto TV mi serve, nuovo, e devo fare una prolunga per vedere quelle cose dell'SDR. Devo fare un capo PL e l'altro spinotto TV per attaccarlo alla penna, capito? Esatto, ho capito. Lo dicevi, stavo andando a accusare, adesso devo portare al nonno l'acqua, che non abita proprio vicino a te, perché sono andato a accusare a comprare dei puntali e un attacco jack per le cuffie. Ah, puntali ne ho quanti ne vuoi, mamma mia. Proprio quelli si è andato a comprare, no, non c'è andare, no. Ho già comprati gli hai. Già li ho comprati, potevamo fare scambio, io ti davo, quelli e tu mi davi i puntali. Ok. Cosa vuoi dire? Ne ho grandi, piccoli. A saperlo prima. Ma c'è anche un MB più 4 nuovo in scatola. Valeria ha messo 31 gradi, che sarebbe domani, però con pioggia 10%, ma non pioverà sicuramente. E bisogna vedere dove piove, capito? Magari qua non piove. Dunque la prossima settimana, la domenica vabbè 25 gradi, lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28 gradi. Cos'è che inizia, come si dice, il caldo? E non mi lo faccio un po' di casa, ci fa bisogno. Comunque domani vado a fare un bel po' di lumache. Quella è poco ma sicuro. E non vi dia vento, mi si per vento non va andare. A chi non ha gatto. Domani arrivo a poco. Così oggi mi devo procurare una cassetta in plastica a proposito. Ma se mando un messaggio a Mirko se me la procura. Cappasa, ragazzi, aspettate che devo scendere e ritorno subito, devo entrare in un negozio. Che be. Ehi, io avevo staccato tutte le alimentazioni, cioè avevo un cavo grosso per l'857, perché ce l'avevo nel cofano a lui, e poi c'avevo il frontalino davanti, ma lo sai quanto era figo? E te credo. Casino. Meno male che ne ho lasciato uno, però è staccato dalla batteria, gli devo rifare il collegamento. Devo fare. Io ho la base dell'antenna, mi basta avvitarla, che ce l'ho in campagna l'antenna, e ho l'impianto a posto. Mi devo solo attaccare i cavi alla batteria. Ah, ce li hai già? Sì, i cavi ci sono, ma sono staccati dalla batteria. Gli altri li ho tutti tolti. Però ne ho lasciato uno. Infatti in questa valigetta ci ho messo tutta la corrente per ripristinare l'impianto di dentro. Gappa gappa. Che va. Chi è avanti? Hola. Quello è il campanello di casa tua. sera a canna di la mamma. Canna che ha soffitto questo. Con un sogno la mezzina era fresca, l'ogni a casa e tu arrega. Adesso mi metto le botte. Mi sa, dopo mi prendo il tram. Hola, siento Málaga, vamos a ver si va escuchando Nord Sardegna, Italia llamando. Estación 165, Mike November Oscar. Hola, siento Málaga, Málaga, vamos a ver si va escuchando Nord Sardegna, Italia llamando. Como que no, fuera visto, si fuera estado, si fuera gustado, la dicho, la dicho, la dicho, la dicho, la playa, ¿no? Aquí arriba, no me cuesta. Vabbè, quello non era problema, quello era solo questione di volume. Adesso sì. E com'è la radio, buona? Sì, sì, buonissima. Sì, ok, sto usando un microfono di quelli con da un volt e mezzo di batteria. Capo, sì, va bene. Sempre sperimentato. Ehi, così, tanto per passare il tempo, non sappiamo cosa fare. Adesso ci devo mettere lo stinottino, ci devo mettere, perché ho fatto lo spettone, capite? Sì. Meglio. Non sto facendo più niente, non tempo che sta facendo, ragazzo, è un casino, stiamo tornando a rimbrare. Purtroppo è così, che vuoi fare, oggi la giornata è un pochino brutta, anzi un po' molto brutta, sembra che sia tornato l'inverno adesso. Pazienza. Certo, pazienza, già ne abbiamo tanta. Adesso il volume è a 5, non so se la batteria è buona, è la verità, però il volume del microfono adesso è a 5. Ma sì, è buona ancora. Ma è forte come radio o è solo chiara? No, è anche fortina. Ah, beh, allora va bene, dai. Ha diciamo a 20 cm dalla bocca il microfono. Va bene. Cos'è che mi hai detto che stavi usando? No, sto usando un microfono dinamico con la batteria da una volta, uno e mezzo. E la rotellina è a 5. Sta andando bene, sono pronto, io pensavo che stavo usando la MBC4. No, quello è l'altra storia, no, stavo provando questo barattino, che dà 5 watt, una cosa del genere, 5-6 watt, siamo lì. Sì, ma sto andando bene, già roba vecchia, là. Roba vintage, là, vintage. Per cui, e ho il filo in mano così mio, ho infilato il filo dentro lo stinotto del microfono, avevo già lo spettore pronto, da una parte era già cablato, dall'altra invece non c'era stinotto, e adesso devo mettere lo stinotto dall'altra parte, in modo che poi questo spettore per questa prolunghetta, diciamo così, si può attaccare direttamente alla, allo spinotto del microfono e funziona tranquillamente. Ehi capo, adesso ci avvivi un picchio presto. Forse perché ero vicino all'orologio, all'orologio qui che c'è digitale, sarà per quello. Ecco, andare, andare, capito. Oh Giulia, diciamo che la, è freschina, ragazzi, come giornata, rimane. Sì, oggi è una giornata fresca, veramente. Infatti io sono a maniche corte, vabbè che sono a casa, stavo pensando quasi quasi di mettere la maglietta a maniche lunghe, ma tutto sommato quando sei a casa non c'è bisogno. E dentro casa no, però tutti fuori, un pochettino ci vuole. Eh sì, sicuramente, se esce fuori ci vuole sì, anche perché sta piovendo, per cui non è che ti puoi far cadere l'acqua sulla pelle così direttamente. Ecco. Ui. Sta andando bene, la corrente sta andando bene, vediamo un po', sono arrivati ieri sera gli elettrici. Controllato, ma no, partiamo con le cappelle, è un problema di capire. Sì, beh certo, però secondo me se hai quel problema frequente ti conviene metterti un volmetro lì e così te lo tieni sempre sott'occhio la tensione. Ma sì, ogni tanto la sto tenendo sott'occhio, però ormai l'avevo controllato anche stamattina ed è abbastanza è regolare adesso. Sai che non so. Poi sto aspettando, se non luci domani o dopodomani mi arriva la quella fare, mi arriva. Una volta ci metto quello non me ne frega per niente. Ah, quello sì, beh certo, quello è vero, già lo credo. Una volta che ce l'hai e basta. Va bene, dai. No, ma una volta era successo anche a me, il contatore a casa. Non c'è la rompelaggio praticamente. Ascolta cosa era successo. La corrente c'era, però era talmente bassa che bastava accendere anche una sola lampadina e saltava. Sono venuti quelli dell'Enel, avevano controllato, avevano, dice ma attualmente qui c'è controllo l'impianto di casa, dice perché sicuramente c'è qualche problema all'impianto di casa. Detto, ma l'impianto di casa problemi non ne ha, io ho detto, non ne ha di sicuro. Comunque vabbè, se come dite voi, già controllerò, già chiamo l'elettricista a controllare. E a chi è serva Giubutu? Sono andato, ho preso un ferratino, l'ho attaccato come ho attaccato e ha iniziato a saltare appena appena, dopo nemmeno 3 minuti è saltata la corda. Ho chiamato di nuovo, guardi così così, l'elettricista mi ha detto che non ho, che l'impianto è a posto e dunque sono tornati, hanno staccato il contatore e per forza la corrente c'era, però non c'era l'amperaggio perché c'era un filettino solamente attaccato. Ma siccome io l'avevo saputo, non l'avevo capito, e io ho giocato dove usarmi l'elettricista, tanto per il mio. Come ho attaccato un carico un po' più pesante è saltato anche quello. A un certo punto non c'era più nemmeno quella piccola tensione. E allora sono venuti e l'hanno messo a posto e tutti a posto, ma questo è successo un bel po' di tempo fa. Ehi capo, sì. Poi qua è arrivato un po' di dalla gattina, che è stata leggermente vicina la pedaggio, capo questo. Infatti adesso l'hanno abbassato, avevo misurato la corrente, l'hanno abbassato e sono stato bene. Infatti, di tutto che mi ha alimentato la barata per bruciarmi. E per quel motivo lì era, perché sono stati qua di corrente. Ma è colpito. Quando è che mi piace quello lì? Quanto ce l'ha preso, l'ho attaccato, come ce l'ha attaccato? Quanto è durato? E non si andava più, poi si è andato il contatore. Ho chiamato, vado in elettricità, se non ho trovato con gli strumenti, gli dritti in spalle, e dunque mi hanno detto che dipende dall'ENE. Sono tornati, dopo qualche ora sono tornati, hanno preso, hanno controllato loro, ma non c'è tensione, ma pure dice c'è la prima, e adesso non c'è più, hanno staccato il contatore e si sono resi conto che dentro c'era, all'interno del contatore c'era questo filo che era quasi completamente bruciato. Allora cosa è successo? C'era un filettino appena attaccato, questo filettino non resisteva al carico che della casa, e come è attaccato con l'asilo ha fatto la possibile, boom, è saltato, è saltato subito. E allora del tuo passaggio, perché c'hai questo fischio grosso e la radio è molto forte, è spostata un po', non è più pulita. Ah, ho capito, sarà la batteria carica, perché adesso forse perché ho il filo in mano, ho il filo in mano così. Capo, però poco fa hai fatto un bel passaggio a lungo, ma non ho capito niente, nessuna parte del corso, perché c'è questo fischio grande e che mangiava tutta la radio, e non riuscivo a capire se stavi parlando o no. Ho capito, ma ancora, perché come uovo le dita magari mi ci stacco dei figli, ancora anche adesso ho abbassato anche l'amplificazione, sia 4. Sì, ma con l'amplificazione è perfetta, solo che adesso sta uscendo bene, ma poco fa quando hai fatto questo attacco, niente. Aspetta che cambio il microfono, perché ho il filo in mano e perde i contatti, aspetta un attimo. Capo, a me il microfono come si deve. Franco, questo è un microfono normalissimo, senza amplificazione. Capo, va bene, ma ormai stai usando questo? No, perché stavo facendo il cablaggio di questo spinotto, di questo microfono, capito? È per quello che stavo provando. E ho i fili, anche questo è lo stesso, è da cablare anche questo, però questo è fissato adesso al momento con l'isolante. L'altro adesso l'ho messo da parte, dopo mi faccio lo schemino in modo che non perdo contatti e gli attacco lo spinotto, capito? Questo però è normale, è quello che sto usando adesso, è proprio normalissimo, il microfono è normalissimo questo. Capo, sì. Sto uscendo bene, a parte questo, non so, questo ho fatto il caffè. Allora per questo, un oraccio che ci ha visto. Certo, avevo il filo in mano, avevo, poi avevo anche la mano stanca come li stavo mantenendo, ti puoi immaginare, adesso l'ho appoggiato così, con il filo dentro, poi prendo la penna e mi segno come sono, in modo che posso saldare lo spinotto senza fare il rullo dopo, dai. Quello sì. Io me l'ho preparato, io ho tutti gli spinotti, le prolunghette, le quante fronte già nel cassetto, di tutte le radio, delle MP4, MP5, di tutto ciò, di tutti i microfoni, ce l'ho tutti, e di tutte le radio, ne ho una, due, tre radio, non è che ho quattro con quella grande, ma non è che ho questo granché, ho fatto fuori il connex, l'ho fatto fuori. Che è bruciato questo, però se ne va in acqua e non ne vale la pena aggiustarla, allora ce l'ho buttato. Certo. No, questo qui, il baracchino che sto usando è un Cobra, di quelli vintage, no? Quello tipo, come dire, come pensare. Presente ce l'hai, un pianoforte così, di quel tipo lì, ci sono due strumenti, ci sono, uno è lo strumento del segnale, eccetera, l'altro è il modulometro. Ed era, questo qui era 23 canali, io qualche annetto fa avevo trovato una rivista dove c'era una modifica che si poteva fare, una di quelle riviste di elettronica, adesso non mi ricordo se era Radio Kitty oppure 5 elettronica, boh, perché io compravo sempre questi giornali, no? E poi ci ho buttato tutto. E ecco l'aggiunta di una quartiera supplementare, l'ho portata tramite questo schemino che avevo visto in questa rivista, l'avevo portata a 37 canali, l'avevo portato, sicché questo baracchino che è nato a 23 adesso ne ha 37, però è una questione di quarti, perché c'è una quartiera a parte, no? Probabilmente se avessi messo qualche quarto in più, perché mi sembra che ne ho aggiunto 4 o 5, adesso non me lo ricordo bene, e probabilmente sarei arrivato anche a 40, però si sa, non è che ho fatto mille prove, perché ho lavorato anche in base al materiale che avevo, tanto più che c'è un commutatore qua a parte che è a 5 posizioni, mi sembra, a 5 scatti. Dunque ogni scatto fa, a secondo di dove metto una levetta, fa un canale praticamente. Quando io tiro su per dire la levetta, con quel coso lì ho 5 canali. Poi cambio canale per dire, se io lo metto per dire, tanto per fare un esempio, sul canale 5, tanto per fare un esempio, sintonizzo il microfono, il baracchino sul canale 5, tiro sulla levetta e con quella levetta tirata su ottengo canale 28, 29, 30, 31, 32. Se lo metto sul 5, se lo metto sul 9 invece ho 33, 34, 35, 36, 37, oltre a tutti gli altri che ho quando ho hecho l'1 è 23, 24, 25, 26, 26, praticamente da 1 a 37 in tutto, in poche parole. Sì, quel comodo l'avevo già visto su internet, l'ho visto che c'ha due tipo smitter, dai, voltometro e amperometro, dovrebbe essere quello come un alimentatore, là. Sì, è così, infatti è così. Naturalmente anche l'altoparlante è frontale, questo sì, poi ha diverse regolazioni, tipo ad esempio il voice lock, poi c'è il microfono dinamico, se lo voglio abbassare, ad esempio se io lo abbasso così, adesso l'ho abbassato, la dinamicità del microfono adesso è più basso, no? Franco? Buongiorno, Eugenio. Buongiorno. Ciao Eugenio, adesso è più basso di radio, fra. Adesso ho abbassato un po' il coso dinamico del microfono. Capo, no, non ti ascolto bene adesso, ti ascolto. Lo rimetto com'era, dai, com'è la prima. No, quello lì è un pomello che c'è, cioè un potenziometro che c'è nel baracchino. Ciao Eugenio, avanti. E dove sei andato? Capo, meglio così. Oggi giornata fresca, no, oggi? Capo, va bene. Avanti. Giulio. Ok, attento Eugenio, fatti sentire, spostati perché ancora non ti sento bene, ti sento troppo basso, non lo sento fra. Non sta parlando, probabilmente c'è come del QRM, c'è. Eugenio, lo senti a Giulio? Ciao Eugenio, ciao, ci sentiamo dopo. Sì, ha detto che ti sente. Bravo che non lo senti più. Va bene, dai. Ce l'hai scelto che stai entrando da mamma. Avanti Giulio. Quando lui è in macchina a Porto Torres, secondo dove si trova, in quale strada si trova, lo sento, in certi altri posti no, perché è così, ma se per quello l'ho sentito anche ieri notte, a mezzanotte, stavo andando a lavorare, devo immaginare, a mezzanotte meno 10, lui stava andando a lavorare, oggi si vede che adesso è uscito e dunque sta rientrando a casa. E va bene, dai, va bene così. Vuol dire che è entrata qualche nave ed è andato a scaricare. Va bene così. Carico e carico. Prima carico, poi carico. Andava bene. E così è, il lavoro è quello. E non c'è niente da fare. va bene, va bene, va bene, va bene. Certo che va bene, d'altronde vai senza lavoro come si farebbe, è impossibile tirare avanti. Va bene così, vabbè. Adesso lui è in attesa di comprarsi qualche altra cosa un po' più seria. Così almeno si farà sentire, perché in questo periodo sinceramente è un po' assente. Prima entrava tutti i giorni, entravano, facevamo queste con molto piacere, poi invece evidentemente adesso non può, perché magari la stazione che aveva a casa penso che non ce l'abbia più, e allora sta aspettando perché se ne deve comprare un altro. Va bene, vuol dire che ha intenzione di fare una bella stazioncina. Ha intenzione. Io sono posto a torre se ce l'ho davanti, è bello pulito. Non l'ho perso da nessuna parte. Anche se si gira tutto sotto a torre se ne via. Certo, lì dove sei tu è più facile. Ma qua purtroppo no, purtroppo magari lo sentono meglio a Sassa. Il problema mio è che io sono in basso, qui a Di Punti è una zona bassa, non è come stare per esempio a Sassa lì in altura, qui io sono in basso. Pensa che sono sotto Sassari, sono di 90 metri, non è poco, però tutto sommato già va bene lo stesso, dai, già mi riprendo ugualmente. Sì, ma già va bene, ci mancherebbe. In confronto anche io, in confronto da come sono messo di Sassa, da Sassa, diciamo che non è che arrivo male, dai, piano piano. Non arrivano da tutte le parti, però quasi. Certo, non si può pretendere di arrivare benissimo da tutte le parti, però quanto basta per farsi sentire e passare un'oretta al baracchino già va sempre bene. Non c'è problema, veramente. Sei alla grande, magari arrivassero tutti bene così come te. Vabbè, gli altri sono in basso, sono in un posto e è diverso da me. Io invece sono nella punta proprio, la punta di sotto, proprio quasi a Sinnoli. Lì è una zona buona, dovrebbe essere una zona buonissima, anzi lo è senz'altro, una zona abbastanza in gamba perché c'è l'altura, c'è l'altezza, però non tutto si può avere nella vita. Io mi sono dimenticato di mettere le ruote nella casa quando l'ho costruita e ho fatto male. Se avessi messo le ruote mi sarei spostato a mio piacimento e allora me ne sarei andato anche in alto per farmi sentire meglio. Ma già va bene lo stesso così, vai. No, ma non ti conviene mettere le ruote, perché vedi, magari tu sei un po' anziano, sì, e là. E io sono in discesa, se metto le ruote qualche mattina mi ci trovo a bordo, mi ci trovo, sono vicino alla nave. Ma te ne immagini se fosse stato possibile quando uno si costruisce la casa così a mettersi le ruote in modo da poterla spostare, sarebbe fantastico, mamma mia, casa mobile i moluchetti, non è possibile. Vabbè, dai, se non scherziamo fra cosa vuoi fare d'altronde. Noi scherziamo, intanto in America le facevano in legno e se le spostavano da una punta all'altra, dall'appartamento se lo spostavano. E come lo facevano? Lo so, ci sono quelle, addirittura le portano da una città all'altra, ma intanto ci sono le strade larghe dove si può passare, sa che portano la casa in piazzata così, la mettono sul tir, la mettono e trasloccano. Lo so, io le facevo, tanti anni fa io le facevo le case in legno, le ho fatto diverse, le ho fatto, soprattutto nella parte della Nurla, non so se ci sono ancora, ma suppongo di sì, perché io sto parlando di tantissimi anni fa, che prima non si poteva costruire, sai com'è la questione, però anche per la casa in legno ci voleva il suo progettino, infatti a me me li progettava come cosa, no? come appartamento, un geometra, e io li costruivo e poi se li portavano via, se li piazzavano loro stessi. Però facciamo delle case anche di 70-80 metri quadrati, belle attrezzate dentro, con tanto di stanze, l'angolo bagno, cucina, tutto quanto, insomma, tutto completamente in legno, e sopra sul tetto ci mettevo le tegole di quelle in catrame verde o rosse, che sono una specie di fuga, una sopra l'altra andava messa. Adesso non mi ricordo come si chiamano quelle tegole, sono passati già tantissimi anni, io sto parlando di almeno minimo 35 anni fa, mi sembra anche di più di quel tempo, e non mi ricordo come si chiamano quella specie di coso, di tegole erano di cartone catramato, però adesiate, no? C'erano color mattone, color tegole, marrone, oppure c'erano verdi, e mi ricordo che isolavo il tetto con quello, ma andava benissimo, tranquillo, pacifico. Anche tante belande ho fatto con quel tipo di tegole lì, la voglia. Ecco, nella Nurra, allora è come seconda casa, se la mettevo, che nella Nurra tutti quanti che avevano, chi ha avuto il terreno, che avevano un appartamento, hanno avuto, e probabilmente come seconda casa, magari una casa per un figlio, una cosa del genere. Beh, sicuramente sì, facevano una base di cemento, di blocchetti, e poi la casa andava messa sopra, e poi, non lo so, perché io glieli facevo, glieli costruivo, e poi ci pensavano loro a montarsela stesso, tramite questo geometra, no, che prendeva questi lavori, e questo geometra faceva il progetto dell'appartamentino e lo passava a me, fammelo così e così, vabbè, io te lo faccio così. Con tutte le sue stanze, no? Con tutti i suoi tramezzi e tutto quello che ci voleva, e poi quando veniva, se lo ritirava, mi pagava e ciccia, e poi lui so che li portava verso la Nurra, in quelle zone lì, sì, qualche altra parte anche forse, e poi ci pensava lui a fare il montaggio, no? Tanto l'aveva progettata lui e sapeva come si doveva montare, anche se io l'avevo costruita, però lui l'aveva già progettata, dunque non era, poi non era così difficile, no? Mettevi la pedana per terra, era tutto quanto in cassa e tutto quanto poi a bloccaggio e a voglia, era semplicissimo e velocissimo soprattutto da montare, fra. Capo, sì, perché la Nurra sono tutti assegnatari, sono quelle dell'Est qua, e mi ricordo che ogni proprietario che è entrato lì, ogni assegnatario ha avuto un appartamento, è anche grande, non è piccolino, e per quello te lo vedo. Sì, ma sicuramente la propagazione si sta aprendo, è anche abbastanza forte. Stavo dicendo, sì, e beh certo, io ripeto, non lo so, io i proprietari poi che questa